La di da da di da, la di da da di da, la di da da di da. I won't waste your high, don't waste mine, mine. If you want my trust, then take your time, your time. Late in the evening, I want you. I do what I got to feel you in me. I already told you to hold me. I already told you. My heart goes la di da da di da, la di da da di da, la di da da di da. My heart goes la di da da di da, la di da da di da, la di da da di da. They say